Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Dalle miniere ai siti contaminati dalle radiazioni, dagli ambienti infetti alle profondità del mare, dalle fornaci delle fonderie ai reparti di saldatura, sono tutte situazioni e ambienti nei quali quando un robot sostituisce un uomo nessuno si lamenta. Insomma, se piuttosto che chiederci quali lavori robotica e intelligenza artificiale distruggeranno, ci domandiamo quali lavori è desiderabile che scompaiano a favore di soluzioni automatizzate e possibilmente cerchiamo di indirizzare lo sviluppo tecnologico in questa chiave, ecco emergere una strategia largamente condivisibile da tutti. La ricerca, o almeno una buona parte, ha fatto proprio questo approccio ed è fortemente impegnata a sviluppare soluzioni robotiche che danno risposte ad esigenze cui l'uomo non può rispondere o non è desiderabile che lo faccia. Allora, quest'oggi vi proponiamo una breve selezione di alcuni dei progetti che abbiamo raccontato nel corso del 2020 e di questa prima metà del 2020 a Smart City, progetti che sono uniti proprio da questo approccio. E poiché quando pensiamo ai lavori che la robotica è auspicabile che faccia sparire, quello del minatore è uno dei primi che viene in mente, vi portiamo a Madrid per parlare di RoboMiners, un progetto finanziato dal programma europeo Horizon 2020 che sta ponendo le basi per creare una generazione di robot bioispirati capaci di estrarre minerali da depositi sotterranei profondi. Ne ho parlato con Claudio Rossi, coordinatore del progetto RoboMiners presso la Universidad Politecnica de Madrid. Sentiamo. Questi robot miners saranno dei robot, come diceva lei giustamente, bioispirati, quindi ispirati agli animali che vivono sottoterra. Possiamo pensare a un grillo talpa, per esempio, una formica, una termita. Sarà un robot grande, molto grande, parliamo di un robot di circa che peserà qualche centinaio di chili, di un metro di lunghezza circa, quindi un insetto robotico abbastanza bello cicciottello, insomma, sì, direi proprio inquietante, sì. Molto potente, ovviamente, perché dovrà scavare la roccia. È un robot idraulico, quindi heavy duty, come diciamo noi, un robot da campo, da lavoro duro. Avrà quindi strumenti, avrà delle zampe, giusto? Sì, è un robot con zampe, perché sì, ovviamente per muoversi in questo ambiente le zampe sono... E anche per ancorarsi quando bisogna fare forza sulla roccia, no? Sì, corretto, corretto. Diciamo che per scavare bisogna avere molta forza, bisogna contrapporsi alla forza degli strumenti di scavo. Degli strumenti di scavo, e quindi dovrà attaccarsi, avrà probabilmente zampe anche sopra e sotto, quindi okay, per attaccarsi fortemente alle pareti del tunnel che lui stesso sta scavando. Che lui stesso sta scavando, e avrà anche capacità, naturalmente, di sensing, di percezione dell'ambiente. Sì, certamente. Allora, l'idea è che, a parte il robot in se stesso, lavoreremo su altri due fronti. Uno è la parte della percezione. Il robot dovrà essere capace di capire dove è il materiale interessante, quindi diciamo seguire la vena. Di assaggiare materiale, il terreno, e dire ok, vado di là e non di qua. E seguire la vena, e quindi scavare nella direzione della vena, esattamente, certo, e scavare, diciamo, il minimo spazio indispensabile per il suo corpo, diciamo, e produrre il materiale di spreco il meno possibile. Il meno possibile. Ecco, veniamo alle condizioni in cui pensate che debbano lavorare questi robot, perché dice molto anche del perché avete scelto questa strada come progetto. Allora, gli scenari che abbiamo in mente, che abbiamo pensato, sono tre fondamentalmente: le antiche miniere abbandonate, che erano state scavate a suo tempo da bambini, spesso sì, hanno delle dimensioni molto ridotte e che sono state chiuse per temi economici, ovviamente, perché sono state inondate, e quindi sì, insomma, costa troppo tirar fuori con i metodi tradizionali. Sì, materia, diciamo che dal punto di vista economico sarebbe troppo costoso riaprirle con metodi tradizionali. E fra l'altro vorrei anche chiarire che ci sono circa 30.000 miniere abbandonate in Europa. Certo, dove magari la vena principale si è esaurita, ma ci sono ancora, no, dei residui non banali. Ci sono tante, sì, situazioni di questo genere. O depositi che sono stati identificati, concentrati, ma piccoli, troppo piccoli perché valga la pena di, no, mettere in piedi tutto il necessario. Proprio questo è il tema chiave. Diciamo che con un robot relativamente piccolo, diciamo, perché dal punto di vista robotico sarà una macchina grande, sì, ma certo, dal punto di vista dell'industria mineraria è un giocattolino, certo, sì, sì, sì. Stiamo parlando di centinaia di tonnellate. Appunto. Quindi, diciamo, questo robot piccolino sarà in grado di approfittare di piccole concentrazioni o piccole vene che appunto con tecnologia tradizionale non sarebbe economico estrarre. Quindi questo è uno degli scenari. Un altro scenario che abbiamo in mente è l'alta profondità, diciamo, e quindi il concetto è scavare un tunnel d'accesso verticale molto profondo, parliamo di centinaia di metri, dove questo robot sarà inviato in moduli a pezzi, dovrà essere in grado di assemblarsi da solo e iniziare a scavare a grandissima profondità, dove ovviamente ancora gli uomini non sono, diciamo, come... Beh, senz'altro non sono a loro agio, questo è poco ma sicuro. Senta. Dunque, uno degli aspetti più importanti riguarda il fatto che voi lavorerete sempre in condizioni di allagamento. Normalmente quando si crea una miniera o si riapre una miniera bisogna prima svuotarla dall'acqua, perché ci vanno degli esseri umani che, come noto, non respirano nell'acqua. Voi invece non solo non avete questa necessità, ma trasformate l'acqua in un, come dire, in una risorsa. Sì, corretto. E diciamo che uno dei maggiori costi quando si parla di riaprire una miniera o di scavare una miniera è proprio quello di estrarre l'acqua. Nel nostro caso ovviamente non sarà un problema, perché il robot sarà perfettamente in grado di certo. lavorare in un ambiente inondato, però non solo, cioè noi trasformiamo questo svantaggio per gli esseri umani in un vantaggio, perché il problema che abbiamo è come estrarre il materiale che certo. il robot scava. Il robot scavando produrrà un fango, e questo fango si può pompare fuori dalla miniera con tecnologie che già esistenti. Però ovviamente se cambiamo il metodo di estrazione deve cambiare tutto il sistema di logistica. Tutta la filiera a valle, tutta certo. la filiera a valle, quindi penseremo un po' alla logistica, consumo energetico, processamento del materiale. Ovviamente questo fango che esce dalla miniera si potrà processare in situ, non bisognerà trasportarlo lontano. Certo. Una delle cose però più affascinanti è che naturalmente questi robot non saranno singoli, come dire, verranno utilizzati a sciami, non so se è corretto dire così. Sì, nel futuro il scenario che abbiamo in mente è una colonia, diciamo, si può pensare più o meno come un formicaio, quindi una colonia di robot minatori che lavorano in forma assolutamente autonoma, diciamo che la gente in superficie non si preoccupa né sa della loro esistenza probabilmente, semplicemente sotto i loro piedi, varie centinaia di metri sotto i loro piedi, c'era questa colonia di robot che lavorano e scavano. Ecco, ma questi robot, una volta che dovessero essere lì sottoterra che lavorano, non avranno anche bisogno di parlarsi? Come fanno a comunicare dei robot che si trovano sottoterra? Sì, allora, il tema della comunicazione ovviamente e della percezione in realtà, perché anche il problema è certo. come sa il robot dov'è. È una parte interessante del lavoro che faremo è studiare sempre, guardando la biologia, come gli animali che vivono sottoterra sono capaci di orientarsi e di comunicare fra loro. Quindi percezione basata sul contatto, tipo i baffi dei talpe, per esempio. Certo, delle talpe, certo. È una parte di lavoro di ricerca che faremo. Poi c'è una parte importante, perché il robot autonomo e totalmente lasciato in balia di se stesso dovrà essere capace di ragionare su se stesso, quindi essere capace di sapere se sta portando a termine il compito per il quale è stato disegnato, quindi dovrà avere questa capacità di autocoscienza. Di autocoscienza, ovviamente non intesa nel senso delle domande mistiche sul senso della vita, ma per esempio deve capire se si sta rompendo, perché... Non lo puoi andare a riprendere a un chilometro sottoterra, deve essere lui che viene su. Esatto, lui dovrà essere capace di ragionare su se stesso, quindi sulla sua performance, sui componenti che ha, se stanno funzionando bene o male, e in base a questo dovrà anche essere capace di riconfigurarci. Quindi diciamo, immaginiamo che si rompa una zampa, si rompa un attuatore, dovrà essere capace, se ne ha la possibilità, di spostare una zampa da un lato all'altro, per esempio. E dunque un domani potremmo affidare robot l'estrazione mineraria, soprattutto laddove impiegare umani sarebbe estremamente pericoloso o insostenibile economicamente. Prima di fermarci per qualche istante, non possiamo però non ricordare il ruolo che i robot hanno avuto nell'esplorazione delle profondità marine, altro ambiente estremamente pericoloso e inospitale. Tutti, per esempio, conosciamo la storia del ritrovamento del Titanic, che sarebbe stato impossibile senza l'aiuto di robot subacquei. Ma vale la pena di ricordare che su robot di questo genere si punta anche per la raccolta di particolari concrezioni minerali, chiamate noduli metallici, presenti in grande abbondanza su alcuni fondali oceanici, operazione che però andrebbe svolta con la massima attenzione per non sconvolgere l'equilibrio ecologico dei fondali, e che sempre a robot marini si guarda per svolgere le attività di monitoraggio ambientale continuativo degli ambienti acquatici, che costituiscono gran parte parte della biosfera e su cui, a parte alcune eccezioni, tra cui le zone costiere, abbiamo pochissime informazioni. Ci fermiamo per qualche secondo, a tra poco. I più grandi impegnati nella didattica a distanza, i più piccoli a casa, sulle ginocchia di mamma e papà impegnati nello smart working o in giro per una breve passeggiata, ma lontani dalle aree gioco. Eppure il tempo scuola è importante anche per loro, i bambini di nidi e scuole dell'infanzia, ed è tempo che le attività educative ripartano anche per loro. Come? Scuola nel bosco, piccoli gruppi. Sono Maria Piera Ceci e ogni giovedì vi racconto un'esperienza di scuola possibile anche per i più piccoli nei podcast di Verso il Futuro e Oltre, sempre su radio24.it. Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis. Bentornati in studio speciale di Smart City, dedicato al ruolo dei robot in tutte quelle situazioni in cui gli umani si farebbero sostituire più che volentieri, diciamo così. E uno di questi scenari è senz'altro quello che stiamo vivendo, cioè quello di una pandemia dove affidare alcuni compiti ai robot permetterebbe di ridurre i contagi. Questo è particolarmente vero in ambito medico e soprattutto negli ospedali, come dimostrano anche i numerosi, insomma, decessi che si registrano in questi giorni tra medici e infermieri. Non a caso nelle ultime settimane sono circolate molte notizie di impiego sperimentale di robot nelle strutture sanitarie, e un quadro dei possibili impieghi dei robot in questo campo ce lo ha fatto Paolo Dario, professore di Biomedical Robotics presso l'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, uno dei massimi esperti mondiali del settore, che insieme ad altri 13 suoi colleghi esperti di robotica di livello internazionale, in un editoriale pubblicato sulla rivista Science Robotics, ha fatto il punto sul contributo che la robotica avrebbe potuto dare alla lotta all'epidemia di Covid-19. Sentiamo. Ma se vuole partiamo anche da un aspetto precedente, che è quello della prevenzione. Quindi, per esempio, compiti legati alla pulizia, alla disinfezione. Non arriverei proprio alla sterilizzazione, questo può avvenire in alcuni casi, però sicuramente i robot possono essere usati, ed infatti alcuni degli impieghi che sono attualmente svolti riguardano proprio questo, quindi robot che puliscono aree all'interno, anche all'esterno degli ospedali, perché possono essere robot diciamo terrestri su ruote, oppure possono essere anche droni che spruzzano sostanze disinfettanti, per esempio. Ed è un compito alla portata dei robot attuali, che infatti viene svolto. Poi, sempre nell'ambito della prevenzione, diciamo così, ci potrebbe essere l'utilizzo di robot per somministrare tamponi o per svolgere altri tipi di indagine, per esempio anche quello di portare telecamera infrarosso, per esempio, o altri, diciamo, altre operazioni che semplifichino in qualche modo, riducano l'impegno degli operatori medici o sociosanitari laddove sia il caso. Oppure c'è una linea di intervento che il robot oggi non è ancora pronto a fare, ma che sicuramente sarebbe in grado di fare in futuro, ed è coadiuvare i medici proprio in terapia intensiva. Ecco, questo tipo di attività in cui il robot possa operare teleoperato, supervisionato, raramente anche in modo autonomo, ma in questi casi molto poco, sicuramente aiuterebbe a schermare i medici, che tra l'altro sono i più esposti, medici e infermieri. Professor Dario, e poi c'è la logistica ospedaliera. Certo, anche questo è un settore di impiego, dal portare medicine o pasti agli ammalati, diciamo così, nel caso dell'epidemia di Covid-19, fino anche a muovere invece, per esempio, lenzuola o altri indumenti usati e diciamo infetti, che quindi vanno trasportati, ed è bene che le trasportino magari i robot anziché operatori umani. E poi tutto quello che c'è fuori, perché non dimentichiamo che anche tutta la logistica che è stata messa a punto in situazioni, in condizioni di urgenza, potrebbe essere largamente supportata dall'utilizzo di robot, molti dei quali sono, come dicevo prima, già disponibili. Un articolo recentemente uscito dice che la pandemia del Covid-19 è una crisi per i quali i robot sono stati costruiti. Sarebbe bellissimo se oggi avessimo un corpo robotico della protezione civile, mi piace usare anche questo termine, pronto ad intervenire al bisogno e pronto a aiutare, perché o sostituire quando necessario gli operatori umani. Ecco, tutto questo, se non lo programmassimo da oggi, magari alla prossima, ahimè, pressoché inevitabile occasione in cui una situazione del genere si ripetesse, nell'attesa che siano pronti i vaccini e che siano pronti i farmaci efficaci, che come tutti stiamo vedendo purtroppo non sono disponibili da un giorno all'altro, avere dei robot, diciamo, di pronto intervento credo sarebbe ampiamente desiderabile. E proprio l'idea di sviluppare una sorta di forza di intervento robotica per delle particolari emergenze è molto presente nel mondo della ricerca robotica. Ogni anno, per esempio, si svolge una competizione, la DARPA Robotics Challenge, in cui team di esperti di robotica provenienti da tutto il mondo si sfidano in una serie di prove nelle quali robot umanoidi devono svolgere attività complesse in aree disastrate, attività che implicano la capacità di muoversi in ambienti difficili, per esempio tra le macerie, e lo svolgimento di tutto un campionario di compiti quali chiudere valvole, aprire porte bloccate, rimuovere ostacoli di vario tipo. Ma nessuno dei robot che hanno preso parte alla DARPA Challenge è mai stato in grado di volare. Ed eccoci quindi all'ultimo progetto di cui vogliamo parlarvi questa sera. Andiamo all'IIT, l'Istituto Italiano di Tecnologia, dove è in corso il primo tentativo al mondo di dotare un robot umanoide appunto della capacità di volare. Parliamo per la precisione del robot iCub, che è una delle piattaforme robotiche più usate e studiate sul pianeta, messa a punto proprio dall'IIT. Ebbene, a guidare questa linea di ricerca c'è Daniele Pucci, capo del laboratorio Dynamic Interaction Control dell'IIT, considerato uno dei ricercatori under 35 più influenti d'Europa. Sentite cosa ci ha raccontato. Allora, se immaginiamo uno scenario post-disastro, come può essere un terremoto, uno tsunami oppure una centrale nucleare che ha avuto una perdita radioattiva, ecco che allora questo scenario come appare? Ci saranno certamente degli incendi e delle inondazioni che si interpongono fra i diversi edifici, che sono magari parzialmente distrutti, e all'interno dobbiamo cercare i sopravvissuti, aiutare e cercare i sopravvissuti. O anche andare a chiudere una valvola di un tubo del gas, per capirsi, no? Cioè intervenire in questi ambienti. Esatto, abbiamo quindi bisogno di robot che vanno a in qualche modo ad operare al posto dell'essere umano che potrebbe rischiare la propria vita, certo, in grado di arrivare sul posto, quindi atterrare, camminare per fare ispezione, cercare superstiti e magari, come dicevi, aprire delle porte o chiudere delle valvole. Allora proviamo a descrivere questo oggetto. Come immaginate di dotare un robot umanoide di capacità di volo? Allora, l'idea è quella di partire dal robot umanoide iCub, che è un progetto che ormai va avanti da all'incirca 13-14 anni, che aveva l'obiettivo di creare un robot umanoide E il robot umanoide ha già una capacità di locomozione terrestre, in quanto può camminare, certo, salire le scale, e ha anche una capacità di manipolazione, perché ha delle mani, quindi può chiudere delle valvole. Quindi un robot umanoide che ha capacità di locomozione terrestre e manipolazione, noi vogliamo aggiungere la capacità del volo, ossia della locomozione aerea, attraverso l'installazione di propulsori che siano in grado di farlo decollare. Ecco, che propulsori? Stiamo parlando dove e quanti, di che tipo? Allora, stiamo parlando di piccole turbine che assomigliano un po' alle turbine degli aerei commerciali che prendiamo per spostarci, però molto piccole, e saranno installate, dopo uno studio per cercare di capire dove, certo, queste turbine devono essere installate, verranno installate sulle braccia e sulla schiena del robot, in modo tale che esso possa coordinare i movimenti in volo e poi, una volta atterrato, abbia le mani libere per poter operare negli ambienti dove deve intervenire. Quindi dobbiamo proprio immaginare un robot che si orienta e cambia direzione muovendo le braccia, come fa, per capirsi, Iron Man in questo caso, anche se non è un robot ed è un'armatura quella lì, diciamo, almeno nell'immaginario. Di quale autonomia di volo stiamo parlando? Allora, noi adesso l'esercizio che stiamo facendo è quello di prendere un robot umanoide esistente e dotargli della tecnologia per farlo volare. Quindi non è un processo ottimizzato, però già questo primo prototipo dovrebbe essere in grado di stare in volo per 4-5 minuti, che se noi immaginiamo... Che non è poco. Se immaginiamo una zona di disastro, possiamo farlo intervenire magari fra... quando sarà operativo. Si parla comunque di superare ostacoli di qualche chilometro con alcuni minuti di volo. Una volta che un robot di questo genere ha delle turbine addosso, può usarle anche per altri scopi, oltre che per volare? Certamente, se ad esempio immaginiamo che, non so, il robot deve spostare un armadio che ostacola l'apertura di una porta, lui può accendere la turbina, certo, per esercitare più forza sull'armadio. Torniamo in studio, cari ascoltatori, per salutarci, per darci appuntamento alla programmazione ordinaria di Smart City, ve lo ricordo, dal lunedì al venerdì alle 20:50. Grazie per essere stati con noi, buona serata e ancora una volta da Radio 24, buon primo maggio.